Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sono le ultime ore di calciomercato, alle 19 si chiude in ordine di tempo, l'ultima trattativa andata in porto anche se ancora non è ufficiale, è il passaggio di Thiago Motta dall'Inter al Paris Saint-Germain, mentre per l'Inter è in arrivo Palombo dalla Sampdoria. Questa, ripeto, non è una notizia ufficializzata, ma è praticamente scontata, ed è curioso notare che pochi minuti prima Ranieri a Piano Gentile aveva spiegato che Thiago Motta è tra i convocati per Inter Palermo di domani sera e ha aggiunto: io non l'ho salutato, è tra i convocati e questo significa che spero di averlo domani. Ormai mancano poche ore alla fine del mercato, bastavano pochi minuti per la verità. Sarebbe sparito Thiago Motta, che ha firmato un prolungamento di contratto con Paris Saint-Germain rispetto a quello che aveva con l'Inter fino al 2015, e sinceramente una pensione parigina non è proprio una cosa a cui si dica facilmente di no. In precedenza, andiamo all'indietro, Iaquinta è andato in prestito dalla Juventus al Cesena, l'Udinese ha annunciato l'arrivo di Pazienza dalla Juventus, Pizarro dalla Roma al Manchester City e Padoin, ma questo era già della tarda serata di ieri, alla Juventus dall'Atalanta per 5 milioni. Atalanta che è in lutto oggi con tutto il calcio bergamasco per la scomparsa a 85 anni di Luigi Angeleri, un centrocampista storico dell'Atalanta anni 50, che ha giocato con quella maglia la bellezza di 317 partite di campionato, 281 delle quali, leggo dall'Ansa, in Serie A. Tutto questo verrà aggiornato in tempo reale insieme alla situazione meteo di Parma. Sapete che stasera, oltre all'intera giornata di Serie B con alcune partite a rischio neve, mentre per tutte è garantito la certezza gelo, stasera è in programma Parma-Juventus. Un'agenzia delle 12:16 annunciava una nevicata fitta ma leggera. Un'agenzia ANSA nettamente battuta da un nostro ascoltatore che si chiama Davide Sani, che alle 10:55 ha mandato la sua mail dicendo: qua a Parma inizia a nevicare come previsto. In questo momento però un altro ascoltatore, Michelangelo Lopiano, ci scrive da Parma, fantastico perché così siamo aggiornati davvero in tempo reale, che in questo momento ha smesso di nevicare, le strade sono libere e ci sono regolarmente i terroni sul prato del Tardini. Chiedo ancora un attimo di pazienza al nostro ospite amico già collegato per non dimenticare la novità dal punto di vista emotivo certamente principale di queste ore, che è l'esonero di Tesser dalla panchina del Novara e il ritorno in Serie A di Emiliano Mondonico. Qui sinceramente sono molto combattuto, perché da una parte trovo profondamente ingiusto licenziare un allenatore che ha portato la squadra direttamente dalla Serie C alla A dopo oltre mezzo secolo. E lo trovo un sintomo in più, insomma, della nevrosi di cui il nostro calcio soffre in maniera endemica. Però dall'altra parte, Mondonico in panchina mi ricorda Abidal qualche mese fa, che solleva la Coppa dei Campioni. Pensate che esattamente un anno oggi, il 31 gennaio del 2011, Emiliano Mondonico entrava in sala operatoria per l'asportazione di un tumore allo stomaco, tra l'altro il primo di due interventi, se ne rese necessario anche un altro. Oggi, a un anno spaccato di distanza, c'è questa straordinaria rivincita per lui, che è inevitabilmente anche un grande messaggio di speranza per chi sta soffrendo e sta lottando. Torneremo a parlarne più tardi. Per il momento, bentornato Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti Fabio, io avrei una scaletta oggi così concepita, più o meno. La crisi del Barcellona, lo so che fa un po' ridere, no? Visto che ma è vero. Pochi giorni fa ha appena eliminato il Real Madrid per l'ennesima volta, ma per la prima volta senza meritarlo. La crisi del Barcellona, questa stupenda classifica di Bundesliga, che mi sembra sempre più appassionante, però avrei anche poi un capitolo a parte. Liquidiamo queste due, che il terzo tema mi sembra anche più intrigante. Crisi, è difficile dire crisi, perché comunque parliamo di una squadra che a questo punto in Coppa del Re ha la strada abbastanza spianata, in Champions League resta la favorita e in Liga è a 7 punti dalla squadra che sta avanti con lo scontro diretto in casa. Detto questo, se entriamo un po' più nell'analisi, ci accorgiamo che è sicuramente in flessione, è in calo. Barcellona è in calo per due motivi, io credo. Il primo perché comunque, anzi forse sono tre, perché comunque dopo aver stupito il mondo con un calcio fantastico e tutto quello di cui abbiamo già parlato e riparlato, io credo sia anche abbastanza fisiologico che gli altri comincino ad adeguarsi e a trovare gli adeguamenti necessari. E questo è abbastanza banale, ma secondo me è vero, perché comunque il Barcellona che gioca ha sempre un gioco superiore agli avversari è diventato un po' più prevedibile. Questo non significa che adesso gli avversari possano tranquillamente disporre del Barcellona, però è evidente che nelle serate in cui il genio individuale magari non assiste o non assiste fino in fondo, il calciatore, il gioco di squadra presta la corda a situazioni tipo quella di sabato sera, quando contro una squadra oggettivamente scarsa come il Villarreal, il Barcellona ha fatto fatica, ma non ha fatto fatica a giocare, ha fatto fatica a segnare. E qui c'è il secondo problema. Questa è una squadra che, avendo perso David Villa, è una squadra che ha perso un giocatore in grado di trasformare, cioè in grado di segnare, anche in situazioni nelle quali magari il gioco poteva anche essere meno fluido. Classico stoccatore d'area, un giocatore bravissimo, che non si è mai espresso ad altissimo livello, cioè non si è mai espresso per quanto lui sia realmente bravo nel Barcellona, ma tante volte è stato quello che ti ha fatto vincere 1-0 oppure ti ha segnato il gollettino che ti è saltato fuori. La terza situazione è, credo, una situazione più psicologica, nella quale il Barcellona, proprio anche qui a livello fisiologico, si può entusiasmare un po' meno quando la caratura dell'avversario, quando la situazione, quando tutto il resto non la costringono a dare il meglio di sé. Si è visto al Madrigal, una squadra che è arrivata davanti al portiere, ma lo ha fatto in maniera molto più leggera, cioè dando sempre la sensazione di dire va bene, questa magari la sbaglio perché tanto prima o poi lo faccio, invece non è arrivato. Sì, è vero, ma insomma è un messaggio di speranza per tutti gli altri, no? Cominciare ovviamente dal Real Madrid, cioè che anche i mostri poi hanno dei cedimenti psicologici, dei cedimenti fisici, perché gli infortuni, oltre a quello di Villa, sono numerosi, e quindi evidentemente appunto, è un messaggio. Anche i più bravi possono... No? Aggiungo due cosine veloci. Sì. La prima è che il Barcellona comunque non ha una rosa ampia come il Real Madrid o come altre squadre. Sì. Ha una grandissima rosa, intendiamoci. Però una rosa che non è superiore ai 14 giocatori di una certa caratura, tenendo conto che ha avuto molti infortuni. Quelli della cantera, quando sono entrati e il meccanismo funzionava, sono innestati immediatamente e hanno fatto un figurone. Non è sempre matematico che entrare in una squadra che gioca una tacchetta sotto possa farti fare una gran bella figura, quindi questo è un dato molto importante. E poi l'ultimo, ma non l'ultimo, è che c'è davanti il Real Madrid, cioè in un campionato dove non ci fosse una squadra che va come un... Certo. Ma fortissimo come Real Madrid, il Barcellona potrebbe anche mascherare questa flessione, e così il Real, verissimo, che a parte il classico non perde mai, vola via. Verissimo. Il fatto comunque che il Barcellona, nonostante il grave infortunio a Villa e altri problemi fisici, non sia tornato sul mercato è segno evidentemente che ci credono ancora, e questo potrebbe essere un bel messaggio per la truppa. L'ultima, proprio di un istante fa, è Muntari, che è andato al Milan in prestito a titolo temporaneo dall'Inter. Noi siamo al primo intervallo per le strade. Allora, ripeto, l'ultimo in ordine di tempo è Muntari, che passa direttamente dall'Inter al Milan in prestito. Vi ho detto prima di Pizarro, che è già in volo per Londra per il Manchester City, e Luis Enrique ha detto che si è trattato di una scelta tecnica. Mi faceva notare, caro Fabio, Franco Piantalida, che dove la Roma vende, cioè i giocatori che la Roma vende sono in testa ai campionati, perché Pizarro va al City, Boriello e Vucinic insomma grosso modo risultano capolista in Italia, e Menez al Paris Saint Germain è a sua volta in testa alla classifica. Torniamo, poi alcuni ascoltatori hanno scritto, dice: ma Villa prima dell'infortunio non era nella lista dei partenti? Beh, adesso non esageriamo, non è assolutamente vero. Ecco. Esattamente, Fabregas e compagni sabato si sono mangiati almeno 3 gol già fatti. No, è vero, ma il discorso scrive è giusto, Giuseppe. Sono mangiati perché non erano così concentrati. Fabregas magari no, perché era quasi il 90esimo, ma prima Messi arriva davanti al portiere e gli fa il pallonetto. Gliel'ha fatto ed è uscita di mezzo metro. È evidente che uno come Messi è capace di farglielo, e 9 volte su 10 lo segna, però quella era la volta su 10 che non l'ha messo. Forse l'osservazione più pertinente quella di Omar da Bologna, che scrive: il Barcellona è in crisi perché manca Iniesta, mancava anche contro l'Inter di Mourinho. Effettivamente è vero che di questi tre, Iniesta dei tre mostri è il più sottovalutato, ma è una specie di cartina di tornasole comunque, no? per il Barcellona ce ne sono due. Una è Pujol, che quando manca sono sempre guai, si sente, soprattutto perché Piqué quest'anno non sta avendo una buona stagione, mi dicono che è un po' distratto, e Iniesta è una cartina di tornasole. Faccio rispettosamente notare che sabato sera Guardiola è partito con i due accanto a Messi, che erano Adriano e Dani Alves, che spesso giocano accanto a Piqué e Pujol, e questo per chi vuole intendere. Certo, ti informo che Roberto da Parma scrive: un anziano esperto agricoltore della provincia di Parma mi ha appena detto che intorno alle 16 ricomincia certamente a nevicare. Adesso staremo sul pezzo. Dunque, io liquidiamo in fretta questa Bundesliga, no? Che in fondo non ha nulla di nuovo rispetto alla settimana scorsa, se non che tutte quelle davanti hanno ricominciato a vincere e a segnare tanto. Sì, perché tre squadre a 40 punti, cioè il Bayern, il Borussia, lo Schalke, una squadra a 39, il Borussia Mönchengladbach, e quindi la lotta per andare nella prossima Champions, tenendo conto che loro hanno la situazione che avevamo noi di solito, cioè 3+1, direi che se la giocano queste quattro, visto che il Werder è a meno 8 dal quarto posto. La cosa curiosa è, secondo me, il rendimento del Borussia Mönchengladbach, che riesce a tenere la strada delle altre segnando molto molto meno, perché il Bayern di Monaco ha fatto 46 gol, lo Schalke 45 e il Borussia Dortmund 43, quindi tutto sommato. Lo Schalke prende un sacco di gol, ne prende 24, cioè ne prende come una squadra di medio-bassa classifica. Sì. Ma il Borussia Mönchengladbach ne fa 31, cioè fa 12 gol meno il Borussia Dortmund, 15 gol meno il Bayern di Monaco, e invece riesce a galleggiare molto bene. L'altra curiosità: il Bayern di Monaco ha perso già 5 partite, che sono secondo me troppe, però insomma, alla fine è comunque lì, primo in classifica. Non è più primissimo come all'inizio, però resta primo. Certo. Dunque, adesso io pregherei Fabio Tavelli di togliersi la giacca diplomatica da ministro degli esteri e di indossare quella da conduttore di Sky Sport 24, perché c'è un argomento che mi interessa molto, e cioè la prevalenza. Adesso, dicendo la prevalenza, tu magari temi che si arrivi al titolo di un famoso capolavoro di Fruttero Lucentini, no? La prevalenza di questo affare che si chiama Twitter, cioè il fatto che Twitter è diventato una fonte riconosciuta di notizie, ormai in generale, ma mi sembra in particolare in certi momenti per voi di Sky Sport 24. Guarda, il casus che mi fa riflettere nasce domenica sera, sì, quando a un certo punto sulla pagina Twitter di Giuseppe Mascara, che faccio un breve inciso, sì, per cosa deve succedere a uno per andare a vedere la pagina Twitter di Giuseppe Mascara? Cioè, è giustamente curiosità professionale, ma non è una devianza, no, è un, oddio, devianza magari eccessivo. Un po' di perversione. Bene, vabbè. Però mi hanno spiegato, quelli che lo usano, io non lo uso, sì, quelli che lo usano mi hanno spiegato che se tu raduni un certo numero di persone che hanno questo profilo e te le metti tra i favoriti, tra i preferiti, automaticamente sulla tua pagina ti compaiono i loro pensieri, quindi non hai bisogno di andare direttamente a cercarli. Quindi questa è un'attenuante che verrebbe riconosciuta dalla Corte. Sì, generica, però sì. Diciamo, faccio anche presente che Giulio della Francia Corta scrive che la coppia Capizzi-Tavelli è la più bella, la più completa, la più simpatica dell'intera TV. Ma probabilmente le bollicine sì, di Francia Corta potrebbero avergli fatto effetto al signor Giulio. Giulio a quest'ora no. Vabbè. Detto questo, che comunque è sempre meglio bollicina che no, allora succede questo, che ci viene segnalato il tweet di Mascara che dice una roba tipo: sarebbe ora tu ammettessi che gli avversari sono, quando perdi ammetti che gli avversari sono più bravi di te, ne usciresti da signore presuntuoso. Ora, con chi ce l'avesse Mascara, ognuno può poi argomentare, e ognuno di noi ha la propria opinione. Quasi tutti abbiamo pensato che si stesse riferendo al suo ex allenatore. Ex di pochi giorni, Mazzarri, no? Tra l'altro era proprio appena andato via da Napoli, sì, Mascara. Sì, sì. il tacon peso del buso, come direbbero i dice i veneziani, ecco, certo. È arrivato poco dopo, perché ha detto: io non mi permetterei mai di dire una cosa su un allenatore che mi ha scoperto e valorizzato. Quindi quei pochi che non pensavano a Mazzarri hanno avuto la conferma che stava pensando a Mazzarri. Oltretutto poi lui ha tolto questo pensiero da Twitter, lasciando solo la smentita. Secondo me ha fatto un pasticcio colossale, ma al di là di questo, che è un dato minimo nei destini del mondo, c'è questa cosa che attraverso Twitter i calciatori finalmente, e questa è la cosa positiva, sono un po' usciti dalla dittatura dell'ufficio stampa, dalla dittatura della società, e quindi hanno cominciato a dire delle cose. Quando Pepe ha calpestato proditoriamente Messi nella partita di Coppa del Re, Rune gli ha dato, non dico del maiale, ma quasi, su Twitter, lasciandola. Rune non ha mica paura di dire che Pepe è quello che è, col vantaggio che Rune ha di poterlo incontrare e magari anche di sistemare dei conti eventuali. Esatto. Tante altre volte invece il tweet è un'emerita scemenza, cioè sarà una partita importante, forza ragazzi, o così. È chiaro che noi poi il biscotto lo stiamo pucciando in questa cosa, proprio perché in molti casi tu hai la sensazione che finalmente il calciatore esca un po' dall'habitat della conferenza stampa o dell'intervista collettiva e ti dica qualcosa di più, e molto spesso è vero, molto spesso è così. Rio Ferdinand è uno che twitta anche mentre fa la doccia dopo la partita. Poi questa secondo me è malattia, però magari, non so, ti pubblica la foto di lui in pullman e tu la fai vedere, perché sono cose che normalmente non vedresti. Certo. Quello che secondo me invece va un po' disciplinato è l'abuso, intanto perché non tutti i profili Twitter sono reali, perché in molti se ne appropriano. Ad esempio accade durante una telecronaca che uno che credo non sia stato smascherato si fece un profilo Twitter con il profilo appunto di Fabio Caressa e si mise a twittare delle cose che una persona sana di mente, e Fabio è certamente sano, non farebbe mai, cioè di twittare durante una telecronaca. Ma il dramma quale fu, Gigi? Che in 3000 credo ci hanno creduto, e tra questi ci sono anche Fiorello, gli ha mandato un messaggio a questo che non esisteva, sì. E il giorno dopo giustamente Fabio se n'è molto lamentato. Beh, lo credo. Cioè il problema qual è? Tu dici giusto questo vento libertario, no? Che dà un po' più di, diciamo pure sì, di libertà, di piacere d'espressione a personaggi che invece le loro società pretendono ingessati ad ogni costo. Attenzione però all'uso che se ne fa dal punto di vista notizia, cioè un conto è il diretto interessato, che pure poi va controllato, come ci hai appena spiegato adesso, che la fonte sia davvero quella. Invece mi pare di capire tra le parole che hai detto, di cogliere una presa di distanze quando via Twitter si pretende di dare notizie che non sono ovviamente controllate. Guarda, domenica quando è morto Oscar Luigi Scalfaro, in molti twittatori hanno gonfiato il petto dicendo: ecco, su Twitter la notizia è uscita 2 ore prima che nell'agenzia. Ecco, io trovo che ci sia anche una misura. Ecco, l'eccitazione a cadavere caldo di andare nell'altra stanza a twittare che la persona è morta a me fa un po' ribrezzo, e sinceramente non mi avranno da questo punto di vista. Credo bene. No, poi perché ti costringe spesso a fare un sacco di verifiche, soprattutto quando parli di eventi del genere, e tante volte giustamente le verifiche vanno fatte, poi è chiaro che le fonti vanno tutte pesate e verificate. Ci sono due fatti. Secondo me tra poco le società, tra poco, qualcuno lo sta già facendo ma ancora non lo dice, inserirà nei contratti dei giocatori anche la gestione del Twitter, perché poi ci sono stati dei fatti. Babel qualche anno fa scrisse delle cose truci con il giocatore Liverpool contro Rafa Benitez, e la società gli diede una multa che Babel si ricorda ancora. Sì. E io credo che da un certo punto di vista anche le società avranno il diritto di cautelarsi. Cioè internet è una cosa fantastica, però dà anche la possibilità, avendo delle maglie molto, è una rete con le maglie molto larghe, dà la possibilità di inserire qualsiasi cosa. Ricordate qualche anno fa Abbiati ebbe un problema sul suo blog perché il ragazzo che glielo aggiornava scrisse un pensiero che non era quello di Abbiati, e Abbiati fu costretto a una importante retromarcia. Tutto questo vale finché finché la rete è così, e la rete resterà evidentemente così. Ripeto, le società presto disciplineranno questa cosa e quindi probabilmente verranno, diciamo, mi sembra di capire che è una libera uscita temporanea questa. Io credo di sì. A maggior ragione abbiamo fatto bene a parlarne, no? Visto che non è detto che sia destinato a durare come fenomeno, e ce ne faremo una ragione, Sì, noi sopravviveremo ampiamente, direi, facendocene una ragione e stando sempre uniti. Ripeto, non bisogna chiuderlo, intendiamoci, però ecco, con un grano salis, insomma, facciamo un filino di attenzione. Non a caso, mi segnala Franco Piantarida dalla redazione, nel contratto di Chiellini, che era stato valutato a suo tempo come un contratto pilota, addirittura ciò che scrive sui social network deve passare prima al vaglio della società, e quindi vedi che addirittura c'era già un'anticipazione di quello che ci hai appena detto tu. Grazie Fabio. Ciao Gigi, un saluto a tutti. Chiudiamo il collegamento con Fabio Travelli con Sky Sport 24. A Parma ha smesso di nevicare. Attualmente la temperatura è di 0 gradi e quindi foriera di ulteriore, è previsto nevischio solo dopo le 19. Vediamo chi avrà ragione, vediamo se sta partita stasera si gioca. Questa è suggestiva. Domenica la Juventus rischia di trovarsi nel Siena, che affronterà al pomeriggio, rischia di trovarsi contro niente meno che Pippo Inzaghi. È successo che il Milan stamane non ha convocato, che Allegri stamane non ha inserito tra i convocati Pippo Inzaghi, e questo ha fatto sì che il giocatore si sia deciso e sia ormai vicinissimo, la cosa non è ancora ufficiale, ma sia vicinissimo ad accettare l'offerta del Siena. Il Siena, per pura combinazione, domenica pomeriggio gioca sul campo di Torino, giocherebbe sul campo di Torino se questa ondata di neve e di gelo che è prevista da venerdì a lunedì, e di cui magari domani parleremo più diffusamente, anche alla luce di quanto sarà accaduto stasera, se consentirà questa ondata di gelo, non dico senza precedenti, ma con pochissimi precedenti nella storia recente del paese, consentirà lo svolgimento delle partite. Stasera sono certamente a rischio Parma-Juventus, vi dicevo, ma in Serie B molte partite in calendario, per esempio Torino-Vicenza, per esempio Città della Sassuolo, per esempio Brescia-Juve-Stabia, per esempio Modena-Albino-Leffe, forse la più a rischio di tutte è Sampdoria-Empoli, perché su Genova sta soffiando una tramontana, insomma già a Genova la tramontana di Marassi è qualcosa di mitico per chi qualche volta se l'è sentita fischiare sulle orecchie. Quella di questi giorni di gelo evidentemente è anche di più, quindi può darsi che questa partita e alcune delle altre che vi ho citato possano essere rinviate. Facciamo conto che invece stasera almeno al Tardini a Parma si giochi regolarmente, allora sentiamo la vigilia dei due allenatori. Prima Conte, che si dedica anche a una definizione particolare del grande rivale Ibrahimovic. In questo momento io penso che Ibrahimovic sia un calciatore che faccia la differenza in maniera impressionante. Cioè, la battuta su Gulliver non è una battuta, cioè a volte sembra di essere un gigante, no? Di essere un calciatore veramente molto molto forte, da fare grande differenza, ecco, rispetto agli altri. Noi siamo una squadra che si esprime da squadra, sappiamo che le nostre partite saranno sempre partite sudate, partite dove dovremmo esprimerci sempre da squadra, con grande intensità, con grande sacrificio, con grande sudore, però non è detto che questa squadra non porti, cioè questa strada non porti dove deve portare. Dove deve portare? Voglio vedere come se la caverà nei mesi prossimi Conte, no? A forza di eufemismi, perché ogni tanto gli sta per uscire la parola e comincia a prendere circonvallazioni tangenziali di ogni sorta per evitare di pronunciarla, ma sono scaramanzie già battute anche nel passato. Sentiamo invece Donadoni, che è freschissimo di panchina parmigiana, come ha vissuto questa vigilia. Beh, siamo in salute anche noi, è chiaro che andiamo a giocare contro la prima in classifica, quindi questo è difficile nella misura in cui sappiamo che i valori sono della prima della classe. Però credo che in queste partite sia ancora più facile trovare gli stimoli, trovare la volontà, e quindi probabilmente anche incrementare quello spirito di gruppo che è fondamentale in queste gare contro un avversario che dal punto di vista tecnico sono superiori. però non sono indubbiamente queste le partite che mi preoccupo da un punto di vista dell'approccio, dell'atteggiamento della squadra. Non la faccia grossa anche lei, Garanzini, sul tempo. A gennaio che caldo può fare? Beh, insomma, no, è evidente, questi sono pure i giorni. Oggi è l'ultimo giorno della merla, quindi figuriamoci se non è normale. Se però io leggo dai meteorologi che l'ondata, di cui mi fido ormai, che l'ondata di gelo prevista tra giovedì, venerdì e domenica, lunedì, in particolare sul nord Italia, ma non solo, supererà le temperature minime dell'85, e per trovare un parallelo bisogna tornare all'inverno del 1956, non credo di sprecare un aggettivo dicendo che è un fenomeno abbastanza straordinario. Non ho detto anormale, perché è evidente che d'inverno fa freddo, e questa è una discreta vecchia teoria, ma che faccia così freddo, se i meteorologi devono trovare parametri vecchi di oltre mezzo secolo, e rischiando di superarli, perché al momento questo dicono alcune proiezioni, mi sembra che valga la pena di curiosare tra questi dati. Antonio, chiamato da Isernia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta un po', le premetto che qui a Isernia già fa molto freddo, chiudo la parentesi. Però le volevo dire, signor Garanzini, due brevi domande sul Milan. Quindi, fino a questo momento, secondo lei vede più il Milan come probabile vincitore dello Scudetto o della Champions League, o magari anche entrambi, tutti e due? E se è sempre, secondo lei, attualmente in Champions League, più riferito alla Champions League, ammesso che il Milan arrivi in finale con il Barcellona, ecco, secondo lei l'unica squadra che potrebbe battere il Barcellona, e secondo lei è solo il Milan o magari ci potrebbe essere anche qualcun'altra squadra? Ecco, queste due domande. Grazie Antonio. Io penso che quest'anno favorito per la Champions League sia il Real Madrid, e non cambio idea, perché Real Madrid è al massimo della sua potenza, della sua convinzione, delle sue risorse, sta giocando un grande campionato, sta giocando benissimo anche in Coppa dei Campioni, ha giocato molto bene anche in Coppa del Re di Spagna e, lo ripeto ancora, per una volta ha eliminato ingiustamente dal Barcellona, quindi secondo me per la Coppa è favorito il Real, il Barcellona non si può non considerarlo favorito, altre grandi candidature non ne vedo, se non forse quella del Bayern. Il Milan è tra, diciamo, i potenziali semifinalisti, secondo me, ma io comincerei a pensare che il 15 di febbraio c'è un Milan-Arsenal che comincia a essere un impegno di qualche difficoltà. Tra Milan e Juventus credo che molto dipenderà da quanto il Milan andrà avanti in Coppa. E comunque, guardi, un primo test ce l'abbiamo tra poco, perché il prossimo mercoledì 8 febbraio c'è la finale d'andata di Coppa Italia San Siro, Milan-Juve. Il ritorno sarà poi nella seconda metà di marzo. E il 26 febbraio c'è Milan-Juve, sempre a San Siro, di campionato. Da qui ad allora il calendario del Milan è parecchio più duro rispetto a quello della Juventus, e quindi è anche possibile che a questo confronto diretto la Juventus arrivi con un vantaggio aumentato, Inzaghi permettendo, se davvero Inzaghi va al Siena e domenica debutta sul campo della Juventus. Daniele ha chiamato da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Innanzitutto un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori, è un piacere poter intervenire nella vostra trasmissione. La ringrazio, Daniele, guardi, la interrompo solo un istante, perché dato che si parlava di meteorologia, allora Sampdoria-Empoli di stasera a Marassi è già stata rinviata a causa neve, la conferma è arrivata dall'assessore allo sport, che spiegherà tra pochi minuti come si è arrivati all'ordinanza firmata dal sindaco relativa a questa decisione di sospendere sin d'ora Sampdoria-Empoli. Fuori una. Dica, Daniele, scusi. Allora, io intervenivo, vista anche la mia età, non tanto da competente di calcio, ma da romantico. e quindi volevo dire che qua a Novara, intendendo per Novara non solo la città ma una zona molto più vasta, così tutti siamo riconoscenti perennemente a Tesser, che è stato uno degli artefici di quella incredibile cavalcata. Devo dire che da come è partito pensavo al presidente Scalfaro, visto che era di Novara e visto che siamo freschi di funerali, ahimè. Però ho capito. Parliamo di calcio. Sì, certo. La seconda cosa è che accogliamo Mondonico con tanto affetto, anche stima, pur se negli ultimi tempi non era corsa un ottimo rapporto con questo allenatore a livello sportivo, però sono cose secondarie, ben accette. Vuol dire, l'altro appunto è questa nota romantica che, dato che Mondonico e Tesser sono molto amici, potrebbe, qua a Novara si sta diffondendo l'idea che quello di Tesser sia un arrivederci e che rimanga nei ranghi il prossimo anno con un altro ruolo magari. Grazie Daniele. Sono arrivate parecchie mail da Novara. Ho scelto quella di Massimiliano Catanzaro, che scrive: vogliamo tributare ad Attilio Tesseri il nostro pubblico ringraziamento, perché ha dimostrato che in questo calcio esistono persone capaci di conquistare stima e simpatia con la correttezza, lo stile, i risultati e tanto lavoro, senza mai alzare la voce. Il continuo pellegrinaggio sotto la sua casa, la sua disponibilità e qualche lacrima ne sono stati l'ulteriore prova. Era Attilio come Ferguson, sì, un po' abusato questo come riferimento, ma insomma Attilio come Ferguson era il nostro sogno, conclude questo ascoltatore, ci hanno svegliati. Alberto ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Egregio. Senta, sono tifoso del Milan, per cui quello che sto per dire ovviamente non me lo auguro, però supponiamo che nel prossimo mese, visto che il Milan giocherà solo una partita di pomeriggio e tutte le altre in notturna a febbraio, supponiamo che si facciano male Ibrahimovic e Thiago. Vorrei sapere se i dirigenti cosa diranno, che colpa del campo, che colpa del freddo, che colpa del vento siberiano o che colpa della loro insipienza che organizzano partite in inverno tutte in notturna. Mi sembra veramente la follia più totale. In settembre giocano a mezzogiorno e in inverno giocano a mezzanotte. Alberto, se no non campano, loro sono schiavi dei diritti televisivi. Se loro rinunciano a giocare la sera, ormai questa cosa è una tenaglia, no? Che il calcio lo morde, ma lo morde nella carne viva. Se i dirigenti che lei identifica, insomma, il movimento calcio italiano di vertice, sto parlando di Serie A, decide che bisogna tutelare meglio i calciatori, ma soprattutto gli spettatori, direi io, impedendo questi scempi al gelo notturno, che dal punto di vista tecnico oltretutto sono molto più scadenti di quanto sarebbe giocare in condizioni normali, oltre che pericolosi per l'incolumità, eccetera eccetera eccetera, ma ripeto, non solo di chi gioca, anche di chi va ad assistere, perché attenzione a star fermi due ore in quelle condizioni di gelo. Le pay TV cosa dicono? Dicono fantastico, avete perfettamente ragione da un punto di vista di tutela, però noi il contratto lo denunciamo, perché per noi avere una diretta pomeridiana, avere una diretta serale, capite bene che cambia leggermente la questione, e quindi chiudiamo un pochino i rubinetti a nostra volta, finito, il calcio italiano è finito l'indomani mattina. Quindi veda un po' lei, io non sto tenendo le parti ovviamente delle pay TV, anzi dico che in questa situazione di resa senza condizioni si sono cacciate le società, quindi lei ha perfettamente ragione, ma non si torna indietro, o comunque non si torna indietro adesso e in maniera, tanto meno in maniera indolore. Prima di tornare ai frequentatori dell'800240024, sentiamo un paio di commenti a trattative andate in porto di calciomercato. Innanzitutto sentirei Iaquinta, che è appena passato in prestito al Cesena. La più concreta è stata quella del Cesena, e alla fine ho scelto Cesena. Sai, quando sei un giocatore non considerato, credo che sia dura allenarsi e non avere obiettivi poi, diciamo, alla domenica. Io sono contento adesso di aver fatto questa scelta, perché mi mancava tantissimo il campo e non vedo l'ora già da domani ad aggregarmi con i miei nuovi compagni. Quindi la Juve si è sbarazzata nel giro di pochi giorni di tutte e tre le sue torri, che d'altra parte non aveva mai utilizzato in stagione, su cui non aveva mai contato fin dall'inizio dell'avventura Conte, e quindi nell'ordine Amauri, Toni e Iaquinta. In compenso si è aggiudicata, l'avete sentito prima, dopo il rifiuto di Cellino, del presidente del Cagliari, di cedere alla Juventus Nainggolan, si è aggiudicata l'Atalantino Padoin, che insomma la cui trattativa ascoltiamo dalla voce del direttore generale della Juventus, Marotta. L'idea è nata semplicemente con un confronto che facciamo quotidianamente con l'area tecnica e con l'allenatore, quindi abbiamo colto questa opportunità e l'abbiamo conclusa. Diciamo che noi avevamo un'esigenza immediata e Nainggolan non era disponibile, ma sicuramente Padoin non è un ripiego, è un giocatore, come ho detto prima, che risponde alle esigenze nostre, quindi siamo contenti e orgogliosi di averlo fatto. L'opinione di Delio Rossi su questa situazione meteorologica: il calendario è legato alle competizioni europee e alla nazionale, per me il calcio è quello delle ore 15, giocare sotto zero non è sicuramente facile. Secondo me si è frenato alla fine, perché avrebbe detto liberamente qualcosa di un pochino più forte, e invece si è appunto ha messo il piede sul pedale del freno. Un ascoltatore e poi la rubrica di Nicola Filippone. Luca dalla provincia di Forlì e Cesena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, il mio intervento è stato un po' bruciato dall'intervento di prima, dove si parlava dei posticipi, partite in notturna del Milan. Devo dire un'altra cosa, che dal 10 di gennaio al 1 di marzo Torino, la Juventus, farà tutte le partite in notturna, notturna è il periodo più caldo per Torino, ma quello che voglio dire è proprio questo, cioè è mai possibile che nei due mesi più freddi squadre come Milan, Inter e Juve debbano giocare in notturna, cioè non è concepibile. E lei deve entrare, cioè deve sforzarsi di entrare nella logica del prodotto televisivo, cioè più fa freddo fuori e più c'è gente davanti alla TV, siamo d'accordo fin qua? No? D'accordissimo. E quindi più c'è gente davanti alla TV, bisogna mandare in prima serata le squadre di grido, e cioè il Milan, la Juventus quest'anno, e poi l'Inter, il Napoli, la Roma, eccetera. Questa è la logica televisiva di chi il calcio se l'è comprato, se l'è anche comprato alla luce del sole, non c'è mica stato nulla di irregolare. Io credo che ci sia una categoria di persone che ha fatto alla perfezione il proprio mestiere, che è quello di chi si è comprato il campionato, di chi ha deciso di investire somme enormi per portarsi a casa quello che si è portato a casa, e ci sia invece chi dall'altra parte il proprio mestiere non l'ha saputo fare con altrettanta professionalità, perché si è venduto senza tener conto di controindicazioni, senza tener conto di altri parametri che evidentemente invece andavano tenuti presenti. Poi ripeto, questi sono discorsi che ricorrono non tutti gli anni, ricorrono ogni tanto in qualche inverno che è più rigido di altri. Dato che questo sta diventando, minaccia di diventare non più rigido di altri, ma addirittura un anno record, è evidente che il problema si pone in maniera abnorme e chiama in causa una volta di più l'improvvida gestione dei dirigenti di club e dei dirigenti di Lega. Questo direi che è incontrovertibile come considerazione. Sentiamo per questo giorno, dell'ultimo giorno della Merla, 31 gennaio, che cosa ha trovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 31 gennaio 1982. Nel secondo tempo di Roma-Cesena, sul risultato di 0-0, l'Idolm sostituisce Scarnecchia con il 17enne Giuseppe Giannini, alla prima delle sue 318 gare in Serie A. Non è un esordio fortunato per il futuro principe. Da un suo disimpegno sbagliato, a 5 minuti dal termine, nasce il contropiede cesenate che porta al gol partita di Genzano, su assist di Schachner. A fine gara, l'Idol elogerà comunque il debuttante Giannini, assicurando ai cronisti che lo avrebbero visto in nazionale. E infatti il centrocampista giallorosso in carriera totalizzerà 47 presenze in maglia azzurra, mettendo a segno 6 gol. Due movimenti di mercato che riguardano le squadre della capitale. Allora, intanto è ufficiale la cessione di Sissé dalla Lazio al Queens Park Rangers, mi pare per circa 5 milioni di euro. Se non, insomma, questa dovrebbe essere stata la valutazione della trattativa. La Roma nel frattempo si è aggiudicata Marquinho, centrocampista brasiliano che era stato a Roma nei giorni scorsi, poi era rientrato in Brasile per ritirare gli effetti personali. Ma c'è un'altra trattativa grossa della Lazio che riguarda niente meno che Nilmar, l'attaccante del Villarreal, che però è una trattativa un pochino più difficile e sembra sul punto di arenarsi. Ormai i colpi di scena sono davvero all'ordine del giorno, no? In questo finale un po' di fuochi d'artificio, quindi si tratta di pazientare quattro ore e qualche minuto per avere un quadro definitivo di tutto quello che è accaduto. Sì, domenica arriva il Burian, il vento gelido della Siberia, a Bologna è previsto meno 17 come nell'85 e nel 56, conferma un ascoltatore. È così, non... Domani io credo che una buona idea potrebbe essere quella, oltre al menù già previsto e a quello che poi nasce come sempre dall'attualità, potrebbe essere quella di far intervenire un meteorologo per proiettarci sul fine settimana sportivo. Palombo è a pochi minuti dalla firma con l'Inter per sostituire Thiago Motta. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti e a domani. A tempo di sport.